ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. 13ª puntata. Mimmo veniva avanti lungo il binario lentamente. Le grandi valigie pesanti che portava, una per mano, lo facevano apparire più piccolo e goffo fra la folla veloce dei viaggiatori. Scorgendo Enzo, il viso congestionato dalla fatica gli si illuminò tutto. Prima ancora che il fratello fosse a portata di voce, posò i bagagli e prese a gesticolare, a far movimenti con la bocca perché l'altro capisse la grande notizia. La tesi sulla colonizzazione ebraica della Palestina gli era stata finalmente assegnata. Più vicini erano dunque la laurea in agraria e il possesso di strumenti professionali che gli avrebbero garantito l'accesso al mondo nuovo. Enzo si congratulò ma distratto, lo sollevò di una valigia e si avviò verso l'uscita senza altri commenti. Mimmo era pieno di notizie e progetti, parlava e parlava, gli esperimenti sui fertilizzanti e le nuove colture che andava almanaccando. L'esperienza sul campo gli dava sicurezze che la laurea in filosofia non poteva garantire a suo fratello. Enzo continuava ad andare, senza parlare e senza guardarlo mai negli occhi. Finché si fermò, passò la valigia da una mano all'altra e poi di nuovo alla stessa, alzò finalmente lo sguardo ed entrando a mezzo in una frase di Mimmo disse: «Ada è incinta, ci sposiamo». Per lo slancio delle parole e dell'andatura, Mimmo ancora fece qualche metro, poi si fermò anche lui, bruscamente inchiodato. Si tolse gli occhiali, vi alitò sopra, li pulì accuratamente con il fazzoletto. Ripreso il fardello, di nuovo si avviò con passo più cauto. Con le valigie condivise ripresero a parlare di progetti ed eventualità. Del voto di castità infranto non si dissero, né di come l'evento avrebbe modificato le loro vite. Poi il matrimonio di Enzo e Ada avvenne senza sfarzo, per non fornire esche ulteriori allo scandalo. Di mezzo c'era stato addirittura un rischio di duello. Lello e il tutore di Ada erano stati lì lì per acquistare le pistole, ciascuno volendo stabilire con il sangue chi dei due giovani fosse stato oggetto di seduzione. Il buon senso prevalse, ma un gran gelo scese fra le famiglie, fino a quel momento assai legate fra di loro. Alfonso prese ad orlare fasce e panni, ma che scossone per il mondo che aveva voluto costruire nei suoi figli. Casto e ordinato come lei. E ora quella verginità perduta apriva un varco di vuoto, quasi un'emorragia, una ferita da suturare immediatamente, con cure e protezioni che la confermassero necessaria. La sua generosità non stupì, per l'abitudine che tutti ne avevano. Fu dunque senza farla mai pesare che accolse in casa propria la coppia e, aspettando il parto, contribuì ai preparativi per la Palestina. Xenia sentì il ticchettio della macchina da scrivere fin dalle scale, regolare come una melodia. Salì gli ultimi gradini di slancio. L'operosità della figlia le metteva allegria. Xeniuska era così assorta che non la sentì entrare. Quando la ebbe davanti la salutò appena per non perdere il ritmo. Accanto aveva una pila di fogli da copiare. La grafia puntigliosa di Mimmo si stagliava netta sulla carta, senza incertezze né cancellature. «Stasera verrà Mimmo a dettarmi», disse Xeniuska senza interrompersi. «È un articolo molto urgente, deve mandarlo al giornale entro domani, assolutamente». Xenia mise sul fornello l'acqua per la pasta e, non vista, sorrise. Di quella fretta da ragazzi, del fervore e di sua figlia con tenerezza, finalmente trascinata da un entusiasmo. Quando Mimmo arrivò, Xenia fu capace di non dare a Xeniuska indicazioni di posizione, di luce, di metodo. Prima si fece piccola piccola, nell'angolo più lontano a leggere, ma la voce di lui la distraeva. Così andò a vedersi Roma di sera, una passeggiata lunga a piedi che che la fece contenta. Ksenyushka non pensava a un libro da pubblicarsi quando, anni e anni dopo, cominciò a scrivere di sé per le figlie strappate a lei dalla malattia che la devastava, lontane via via quanto la vita. Ma anche con loro scelse per raccontarsi il filo della storia esemplare e la terza persona. Una presunzione di verità così rigida da sottolineare, e chissà se inconsapevolmente, le censure e le rimozioni che intessono la sua scrittura. Chiamò se stessa per descriversi Marina, non uno pseudonimo, ma il nome di battaglia con il quale la conoscevano nel partito, nella clandestinità, nei rapporti della polizia e dell'ovra. Marina, non Ksenyushka o Ksenia, perché non ci fosse bisogno di troppe spiegazioni e i silenzi non suscitassero interrogativi ancora scomodi. Poi quei suoi ricordi divennero un libro, I giorni della nostra vita, stampato a migliaia di copie in tanti paesi, da Cuba al Giappone, dalla Germania alla Romania e alla Grecia. La sua storia privata, così come lei aveva scelto di raccontarla, divenne parte di una storia più grande. Lette in caratteri di stampa, le sue parole assunsero il colore rotondo della verità, senza sfumature o coni d'ombra, senza tracce visibili di cancellature o abrasioni. La prima pagina, con l'innocenza di un colpo di spugna, lava via tutto ciò che Ksenyushka ha alle spalle, tutta la sua vita prima che Mimmo vi si affacciasse. Seduta al tavolo di cucina di fronte a sua madre, Marina mangiava svogliatamente. S'era accorta subito che sua madre era agitata, come se avesse qualcosa di molto interessante da raccontare e si trattenesse a stento. Ma a Marina non interessava affatto sapere di cosa si trattava. Il mondo di sua madre da molti anni aveva cessato di occuparla. Quello che apprezzava di più in quel momento era il fatto che sua madre, distratta senza dubbio dai suoi pensieri, dimenticava di ripeterle le solite frasi: prendi un altro po' di formaggio perché non mangi ancora un uovo, che le procuravano quella sorda irritazione che non mancava mai di toglierle l'appetito. Come ebbe inghiottito l'ultimo boccone e mentre stava ripiegando la salvietta, sentì gli occhi vivissimi della madre che la fissavano più penetranti e più vividi del solito. Sarei curiosa di sapere, disse, se tu accetteresti di sposare Mimmo. Queste parole caddero così improvvise nel silenzio che lì per lì Marina credette di non aver udito bene. Poi un'onda di risentimento contro la madre la invase. Si arrabbiò perché la madre si impicciava di queste cose, perché non la lasciava vivere a modo suo. Mamma, Mimmo è l'unica persona con cui siamo veramente amici. E ora tu mi guasti tutto, esclamò irritata. Con la presunzione dei suoi 18 anni, Marina credeva di aver perso ormai ogni illusione sugli uomini. Era persuasa di essere stanca della vita e aveva riposto le sue ultime speranze nell'amicizia con la A maiuscola, quella di cui tutti dicevano che non può esistere fra un uomo e una donna. Invece non era vero. Mimmo non era come gli altri, le era amico, veramente amico e nient'altro. E ora sua madre con quella domanda sciocca rovinava tutto. E poi ha un anno meno di me, aggiunse dopo un momento di penoso silenzio. Si irritò ancor più per queste sue parole e perché le parve di scorgere un lampo di malizia negli occhi della madre. Volle alzarsi bruscamente da tavola, come faceva sempre quando non sapeva come meglio esprimere il suo cattivo umore. Ma la madre prevenne il gesto. È venuto Mimmo questa mattina, disse. Era molto agitato, sai? Tanto agitato che mi ha recitato d'un fiato il suo discorso, ancor prima che avessi il tempo di richiudere l'uscio di casa. Ti interessa sapere cosa mi ha detto? Mi ha detto che lui non è capace di fare la corte alle ragazze, che non è capace di dir loro che è innamorato, e che perciò aveva pensato che per lui l'unica via possibile era quella di venire da me a pregarmi di chiederti se lo volevi sposare. Naturalmente gli ho detto che, data la sua età, mio dovere sarebbe stato fargli scendere le scale a ruzzoloni. Sai bene però che ho sempre avuto un debole per quel ragazzo e così gli ho promesso che la commissione te l'avrei fatta. Ma ora sbrigatevela fra di voi. Io non voglio saperne più niente. E ricordati che non potrei mai dare il mio consenso ufficiale a quel ragazzino se prima non si sarà almeno laureato. «29 gennaio 1926. Bambina mia cara, nel giorno del tuo compleanno io ti faccio i miei auguri, che tu possa essere fonte di gioia alle persone che ti saranno vicine. Ricordati della natura ed ama gli uomini. Possa tu essere felice, mia bambina adorata. Ti do in regalo una cosa che mi è estremamente cara, una fotografia di tuo padre fatta ad Olmsk durante la caccia, nel primo anno del nostro matrimonio. E Lev non ha fucile o binocolo per scovare le prede. È seduto a un tavolo carico di libri, accanto a un lume. La camicia aperta sul collo lo fa sensuale e la mano sulla fronte pensoso. I suoi occhi che guardano lontano hanno la stessa luce che Xeniuska sta imparando a riconoscere e amare in Mimmo. Ora che sei più grande e sei col tuo Mimmo, devi sapere e devi interessarti di più sia di tuo padre sia della mia vita in quel periodo. Che fastidio per Xeniuska questi richiami. La sua vita tutta nuova da inventare e sua madre che continua a tirarla indietro verso un passato che le sembra radicalmente diverso da quel futuro che lei e Mimmo e lei stretti in un'unità indissolubile, stanno immaginando per sé. Ciò che erano stati prima della scelta di vita non ha, non deve avere importanza, se non per il sollievo di essersene riscattati. E se Xeniuska, ormai Xenia a pieno titolo, senza diminutivi, per aver cancellato da sé la madre, nelle lettere raccolte nel libro scrive ancora «Uriello mio caro», il lettore può legittimamente supporre un soprannome dialettale, un residuo affettuoso degli anni di Napoli, dove Mimmo ha ora il proprio collegio elettorale. «Cancella le orme», ha scritto Brecht, che Mimmo non amava. Lui e Xenia per anni perseguono l'obiettivo con ostinazione e metodicità, ma questo dopo le fratture e le cesure. Quando si conoscono, quando Mimmo decide che si sposeranno, il progetto è la Palestina con Enzo. La scelta rischiosa li fa uniti e uguali. Il piacere di emergere che hanno in comune non è esploso ancora fra loro come molla dirompente. E ancora Enrico, nel riflettere sui fratelli e se stesso, può sottolineare come una forza le caratteristiche comuni e non le differenze. «15 aprile 1926. Si è aperto sempre di più il solco che nel più vasto ambiente familiare fa della nostra famiglia, di noi fratelli, un gruppo a sé, diverso e ostile, la cui presenza è importuna, quasi come una condanna o un biasimo permanente. Qualcuno più intelligente ha capito persino la diversità profonda fra noi e X ed ha versato su noi tutti gli anatemi. Siamo ormai i reprobi, i germi di un'infezione pericolosa alla quale la pazza condiscendenza dei nostri genitori ci ha permesso di cedere e che noi cerchiamo subdolamente di diffondere. Gente da mettere al bando. matrimonio di Enrico fu quello che, in sé, diede ad Alfonsa maggior sollievo per le preoccupazioni che negli anni le si erano andate accumulando attorno a quel figlio assediato dalla solitudine. La sua strada di isolamento, Enrico, se la costruiva con lucidità. L'unica libertà che si dava era percorrerla fino in fondo. Napoli, 30 maggio 1927. Io cerco di sottrarre quanto più è possibile della mia vita all'incontrollabile dei sentimenti per farmi guidare finché è possibile solo dal lume della ragione. Che si tratti di un lume a valore limitato lo so bene, ma è pure sempre meglio che niente, e in ogni caso è l'unico lume che sia a nostra disposizione. Può essere che il farci così esclusivamente guidare dalla ragione ci tolga qualche possibilità, ma non credo che se la nostra ragione, il nostro intelletto, cioè il nostro io più vero, non ci conduce a ciò, vuol dire che si tratta di una possibilità estranea a quelle che sono le nostre più intime necessità, di una possibilità cioè che è estranea alla nostra più vera personalità, partecipe di una delle altre personalità che ciascuno di noi ha in sé. Ma è appunto attraverso alla negazione di queste personalità accessorie che noi arriviamo all'isolamento, alla coscienza perfetta di quella che abbiamo scelto come la nostra personalità. È attraverso questo processo che noi possiamo giungere a quell'unità spirituale che mi sembra il bene supremo, alla ricerca e per la conquista del quale ogni uomo deve dedicare tutte le sue forze. Si può obiettare che possiamo aver scelto fra le nostre possibili personalità una che non è quella per la quale avevamo maggiori possibilità, ma allora vuol dire che tutta la vita sarà mancata. E non soltanto quelle poche possibilità alle quali razionalmente e volontariamente si rinuncia perché non appaiono consone al resto. Tagliar via una parte di sé per realizzarsi integralmente. Darsi legami e limiti per essere davvero liberi. Optare esclusivamente per scelte in sintonia con la propria personalità. Quasi un compendio delle idee che sottendono l'intera cultura ebraica. Ma il termine kasher, che dentro di sé porta tutti questi significati, Enrico probabilmente non lo pensava più, o almeno non consapevolmente. Consona al resto, gli apparve comunque finalmente l'ebrea Dvora Rabinovich, nata in Palestina da immigrati russi e ora in Italia per studiare biologia. Una ragazza forte, con un gran senso della propria autonomia, capace di irrompere con una ventata di vitalità ridente nel rifugio di lui, senza portarvi uno scompiglio eccessivo. Per lei fu un grande amore, per lui qualcosa di forse meno compatto e definibile, ma finalmente Alfonsa riuscì a cogliere negli occhi di suo figlio, almeno qualche volta, una briciola di voglia di vivere e non soltanto di fuggire. Dalla Palestina Enzo scrive lettere entusiaste, disordinate perché strappate al sonno. Malgrado la preparazione e la volontà, la vita del manovale è dura per la sua schiena e per le sue mani. Per la famiglia, per tutti quelli che sanno di lui, è già l'emissario, colui che porterà in Palestina le caratteristiche così peculiari degli ebrei italiani. Non riescono a pensarlo contadino. Malgrado la sua predicazione cocciuta del ritorno alla terra, tutti contano su di lui come organizzatore, come politico, e quel definirlo emissario è per conferirgli dignità di ambasciatore. Alfonsa confeziona per lui indumenti resistenti, protettivi. Le speranze che questa resti per suo figlio una pagina avventurosa da voltare si fanno scarse e partirà fra breve anche l'altro figlio, il più piccolo. E poi la casa sarà vuota. Alfonso sa di averli costruiti protagonisti. Qualcosa le trema dentro ad ogni lettera, ad ogni telegramma che arrivi, magari per ragioni del tutto differenti. Ermelinda nasconde le incertezze in un grande affare. La partenza di Enzo ha dato un senso nuovo alle sue raccolte di fondi, alle vendite di beneficenza. Ma come in Alfonsa, anche in lei il senso di equità è radicato. La sua immaginazione cavalca per le paludi della Palestina, ma il suo affetto è vivo anche qui. Anzi, ha per Mimmo ed Enrico attenzioni più calde che in passato. Quando viene a Roma da Portici, per vacanze sempre brevi, Mimmo esce dalla sua stanza quasi soltanto per incontrare Xeniuszka e solo con lei scambia progetti. Solo i libri possono riempire il grande vuoto che Mimmo si sta scavando dentro, fatto di eliminazioni progressive, di nodi troppo dolorosi per essere sciolti e che dunque non si può che tagliare di netto, con una lama fatta di parole. Non più le parole della Bibbia, mutevoli e interpretabili perfino nell'ortografia, che possono significare ogni cosa e il suo contrario insieme, ma parole ferme su pagine prive di dubbi, scritture definitive capaci di mantenersi uguali e di cambiare con il mondo le persone. Il bisogno che Mimmo ha di farsi diverso è vitale. Pur nel silenzio di lui, di tutto quel vuoto Xeniuszka si accorge. Occuparne ogni recesso, questo sarà il compito della sua vita, che Mimmo le attribuì prima ancora che lei arrivasse a rendersene conto. Non capiva ancora che Mimmo la conosceva molto meglio di quanto si conoscesse lei stessa e che non c'era bisogno di esortarlo ad avere pazienza. Egli sapeva esattamente quali erano i suoi difetti e sapeva che sarebbe stato capace di venirne a capo, perché quello che aveva trovato in lei era per lui la qualità più preziosa. Sapeva con certezza che sempre avrebbe potuto contare su Marina, che sempre, da vicino o da lontano, l'avrebbe avuta al suo fianco, non come una donna che lo avesse amato e che però avrebbe anche potuto cessare di amarlo, ma come parte di se stesso che non avrebbe mai più potuto ridiventargli estranea.